i due obiettivi sono sia la liberazione di Öcalan, sia la cancellazione del PKK, PKK, il Partito dei Lavoratori Curdi, la cancellazione di questo dall'elenco delle associazioni terroristiche stilato dagli USA e dall'Inghilterra su richiesta della Turchia, e condizione dell'inserimento del PKK in questo elenco delle organizzazioni terroristiche è stata già giudicata da due tribunali, uno dal Tribunale di Lussemburgo, che è stata anche impugnata dalla Commissione Europea, una decisione che ha stabilito che il PKK è stato inserito perlomeno dal 2013 in modo erroneo all'interno di questo elenco e che si auspica che debba essere cancellato. Questa decisione è stata impugnata e pochi mesi fa è stato deciso in parte di annullarla, ma in parte rientra al Tribunale. La Corte di Lussemburgo ha annullato alcune parti e ha rimandato al Tribunale dello stesso Lussemburgo la sentenza, che quindi non è ancora definitiva, ma che comunque ha stabilito questo criterio, che è importante, perché a seguito di questa sentenza ce n'è stata un'altra in Belgio della Corte Suprema, ha avuto già i suoi gradi di giudizio ed è definitiva, in cui si afferma che PKK non è un'organizzazione terroristica, bensì è parte di un conflitto interno allo Stato turco, che vede come parte appunto lo Stato turco e i rappresentanti dei lavoratori curdi, e questo conflitto interno non può essere soggetto alle leggi penali della Turchia, ma va soggetto alle leggi di guerra e quindi anche le tutele previste nelle leggi di guerra, per cui il PKK non può essere discriminato. Questa è una sentenza importante ed è definitiva. E in base a questo e alla richiesta di liberazione di Öcalan, crediamo che sia uno proprio dei metodi, che sia l'unico metodo che può consentire la fine dei conflitti armati, non solo tra la Turchia e il PKK, ma in quella zona, diciamo, geografica e politica, che è appunto la Siria, l'Iraq, la Turchia e l'Iran, che sono i paesi in cui il popolo curdo è diviso. E pensiamo che questa battaglia sia giusta, e per questo andremo, ci hanno comunicato appunto che la manifestazione su questi due obiettivi sarà sabato, per quanto riguarda noi a Roma.